La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno. Anche in questa puntata iniziamo a parlare di violenza sulle donne, di femminicidi, genocidi e violenza sulle donne. A Bologna un seminario organizzato dall'assessore Milly Virgilio, assessore alla scuola, formazione e politiche delle differenze. Prima però di dare la parola all'assessore, vi ricordo sempre per quanto riguarda la violenza che al Teatro India dal 22 al 26 al Teatro India di Roma ci sarà appunto Aborto e maternità, una storia tragica di donne con Federica Bern e Barbara Valmorin. Ma torniamo al seminario, un seminario che ha fatto discutere anche per un volantino che rievocava gli anni della guerra, del secondo conflitto mondiale. Assessore, lei ha riunito alcune donne, alcune scrittrici che parlano proprio della violenza sulle donne. Quali sono i temi che avete affrontato in questo seminario che c'è stato ieri a Bologna? Gli aspetti sono, come dire, hanno in comune esaminare appunto la violenza contro le donne nell'era globale, cioè quello che è interessante in questa, nella produzione attuale e nella discussione attuale è che si sta esaminando tutti quelli che sono le possibili modalità, tant'è vero che uno di questi lavori è sui femminicidi che si stanno svolgendo in paesi dell'America Latina, in Argentina, ci sono alcuni fenomeni su cui in questo momento anche l'Europa sta prendendo posizione. Quindi quello che emerge è, diciamo, una complessità e un ventaglio molto articolato di modalità. Noi spesso diciamo violenza, poi la chiamiamo violenza di genere, poi la chiamiamo violenza sessuale, violenza familiare, violenza domestica. I termini sono tanti e proprio perché ci sono tanti modi e tanti punti di vista in cui affrontare questo tema. E questo è, diciamo, un po' anche la particolarità che emerge da questi volumi, dagli interventi di queste autrici. Noi ricordiamo anche due libri che sono usciti recentemente sulla legge sullo stalking, che noi apprezziamo molto sia stata approvata, e lo stalking, forma e di abuso sulle donne abituate a subire in silenzio senza tutela legale, e editori riuniti University Press a cura di Alessia Amore, quindi stalking. Poi stalking e violenza alle donne, le risposte dell'ordinamento, gli ordini di protezione, forum associazione donne giuste, criminologia Franco Angeli, due libri che appunto ci sono giunti, che hanno seguito l'iniziativa del ministro delle pari opportunità Mara Carfagna. Sulla legge sullo stalking, lei che idea si è fatta, assessore? Uno degli interventi è proprio, è anche noi, anche in questo dibattito, lo stalking ha costituito oggetto di discussione, perché uno degli interventi è proprio su questo ed è di Federica Resta. Quello che mi interessa dire è che oggi questi temi stanno diventando oggetto di ricerca. Questo è un fatto importante, perché tempo fa, fino a qualche anno fa, erano anche materie che non costituivano, come dire, erano materie di secondo grado, di secondo livello, che non costituivano oggetto di discussione, non potevano assurgere a testi scientifici. Adesso invece c'è questa produzione. Sullo stalking non posso che essere favorevole, del resto era già da precedenti legislature che certo. Parlava di introdurre questo reato, che ha questa caratteristica di essere un reato, diciamo, ostacolo, di essere un reato che cerca di arrivare prima dell'irreparabile. Questo è il significato dello stalking, per certi aspetti si poteva anche intervenire anche prima, cioè non è che fosse privo di tutela legale la donna che subiva molestie ripetute. Certo, averlo affermato, avere il legislatore che afferma questo, credo sia un passaggio in più che anche sul piano simbolico, che in questa materia è un piano molto importante, quindi io non posso condividerla quella norma. Senta, assessore, il suo seminario però è stato un pochino giudicato negativamente per questo cartellone che lei ha scelto, che era un manifesto fascista degli anni 40, in cui c'è un nero che sta per violentare una donna bianca. Lei l'ha scelto in modo critico, molto spesso c'è una sorta di xenofobia per quanto riguarda gli stupri sulle donne, è per questo che lei ha scelto questo manifesto. Il volantino è un volantino che ha in un angolo, c'ha appunto c'ha il suo testo, e poi in un angolo in alto a sinistra, perché è un invito, è andato via per email, qualche copia in cartaceo, ma non è un manifesto come qualcuno ha detto, è un A4, è un foglio A4 in cui è riprodotto questo, che è un manifesto di propaganda bellica fascista. È un manifesto in cui il nero è un militare, è un soldato americano, e sotto c'è violenta... è un manifesto anche piuttosto conosciuto, mm-hmm. E sotto c'è che questo militare nero aggredisce una donna bianca vestita anche proprio di bianco, è un manifesto particolarmente efficace, molto crudo, che accompagnato, a suo tempo era stato accompagnato, e c'era proprio la didascalia sotto: difendila, potrebbe essere tua madre, tua moglie, tua sorella, tua figlia. Evidentemente lo scopo, e chi leggeva l'invito non può, perché non è che ha circolato autonomamente, circolava come nel testo dell'invito, no? Quindi collegato a femminicidi, genocidi e violenza sulle donne. Evidentemente vuole esprimere il significato di quella scelta, era di esprimere purtroppo uno stereotipo che noi sappiamo essere ancora molto diffuso, e cioè che chi aggredisce le cosiddette nostre donne sono gli stranieri, sono persone diverse, sono altre da noi, sono i nemici. Infatti questa era propaganda bellica. Quindi lei è stata criticata, purtroppo, di drammatica attualità. Ecco, lei è stata criticata, invece lei voleva denunciare questo fatto come un'attualità che ancora oggi c'è nel nostro paese, una sorta di xenofobia. Certo, certo. E chi riceveva il volantino, certo che se il volantino viene tagliato e va e viene diffuso come alcuni giornali hanno fatto, secondo me lì sì che c'è un grave errore di comunicazione, perché non si può tagliare il manifesto e presentarlo da solo. Il manifesto era contestuale ed è una parte di un invito in cui il tema mi sembra sia molto molto molto chiaro. Ringraziamo allora l'assessore alla scuola formazione politica delle differenze, Milly Virgilio, e ricordiamo questo seminario antiviolenza che c'è stato ieri a Bologna. La quota rosa. Avete una colf, una badante? Insomma, chi deve pagare i contributi? Perché adesso l'INPS ha deciso di rivoluzionare tutto. Sono in arrivo 700.000 lettere ai datori di lavoro, vale a dire noi, insomma, i padroni di casa, per calcolare i contributi di colf e badanti e anche di babysitter. Perché? Perché a un certo punto l'INPS ha deciso di fare da solo. Prima li calcolavamo noi, adesso li vuole calcolare l'INPS. Ce le facciamo spiegare da Francesca Romana Cagnoli, dirigente dell'INPS. Ci spiega perché avete deciso di mandare queste lettere e perché c'è questa rivoluzione. Buongiorno. Diciamo che l'INPS ha avviato un generale processo di semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro domestico. Il datore di lavoro domestico è colui che assume un collaboratore familiare, che può essere una colf, una badante, una babysitter. Questa attività di semplificazione si è sostanzialmente indirizzata su due direttrici, da un lato quelle relative alla denuncia del rapporto di lavoro, perché dal gennaio del 2009 sono state modificate e snellite le procedure di assunzione attraverso tutta una serie di nuove modalità e una nuova modulistica, e soprattutto è stato previsto che l'assunzione potesse essere effettuata tramite telefono, quindi facendo una semplice telefonata al contact center dell'INPS, il cui numero ricordo è 803 164, è possibile denunciare l'assunzione di un lavoratore. In questa denuncia di assunzione vengono fornite una serie di elementi, tra cui anche quelli relativi alla retribuzione oraria e alle ore lavorate. Questi elementi consentono all'istituto di effettuare un calcolo della contribuzione dovuta sulla base appunto delle indicazioni fornite dal datore di lavoro, e gli stessi elementi sono anche desumibili dai bollettini che sono stati versati dai datori di lavoro per i rapporti di lavoro già in essere. Quindi sulla base di questi due elementi, e sempre nell'ottica di aiutare i datori di lavoro a fare versamenti senza rischiare di incorrere in errori di calcolo o di compilazione dei bollettini, abbiamo pensato che questa potesse essere una forte agevolazione e un aiuto non solo ai datori di lavoro, che quindi risultano esonerati da rischi connessi ad errori, ma anche proprio rispetto ai lavoratori, anche che a questo punto si vedono accreditati in posizione, sulla loro posizione assicurativa, la contribuzione effettivamente spettante in relazione al lavoro che hanno svolto. Dottoressa Cagnoli, lei ci sta dicendo tutto questo, però un pochino, no, queste lettere ai datori di lavoro, l'INPS che calcola i contributi, serve anche per combattere quello che è la piaga del lavoro nero, che rispetto a colf e badanti è molto molto alta come percentuale in Italia, o sbaglio? Ma questo è un aspetto che attiene un po' più alle politiche generali dell'istituto, quindi forse non sono l'interlocutore più adatto. In ogni caso non c'è dubbio che l'attività che si sta svolgendo è un'attività finalizzata ad un aggiornamento puntuale degli archivi e delle informazioni che su questi archivi risiedono, e rendere affidabili queste informazioni vuol dire certamente ridurre le percentuali di errore e di anomalia, e consente probabilmente di mettere a raffronto questi dati con dati di residenti su altri archivi, e quindi in qualche modo evidenziare forse ambiti e zone sulle quali operare poi magari dei controlli. Vediamo le cifre. I lavoratori domestici sono in totale in Italia 562.000, di cui 435.000 stranieri e 127.000 italiani. Quella delle italiane resta la comunità più importante di colf, 127.000 lavoratrici, seguono le romene con 110.000 presenze, seguite dalle ucraine, 72.000 lavoratori, e solo al quarto posto arrivano le Filippine, oggi sono 49.000. Onorevole Paola Pelino, segretario della nona commissione lavoro pubblico e privato, come vede questa iniziativa dell'INPS, e soprattutto questo servirà a combattere il lavoro nero? Buongiorno innanzitutto. Sicuramente il lavoro che sta adottando l'INPS mi sembra un lavoro che, come ha detto prima appunto chi mi ha preceduto, di semplificazione, e comunque mettere in condizione appunto il datore di lavoro mettere in regola anche tutti coloro che tutte quelle persone che naturalmente prestano servizio come colf, badanti, eccetera. Il nostro governo sin dal primo momento, proprio per risanare le casse del nostro Stato, ha parlato che il lavoro nero incide, ci vuole l'emersione appunto di questo lavoro nero. Allora io dico che qualsiasi strumento sia assolutamente atto idoneo a far sì che ci sia il più possibile una emersione di lavoro nero in tutti i settori. Ecco. Quindi diciamo che mi sembra anche che con il decreto flussi stiamo cercando, siccome poi la maggior parte, anche se le cifre parlano che naturalmente badanti e colf in Italia sono italiane 500.000, come è stato detto, però dobbiamo registrare anche che ci sono molti comunitari ed extracomunitari, quindi stiamo cercando proprio di far sì che venga tutto regolarizzato. E mi sembrava anche giusto con questo tipo di contratto collettivo nazionale sulla disciplina appunto del rapporto del lavoro domestico, e quindi questo contratto che noi sappiamo si divide in tre punti: colf a mezzo servizio, colf ad ore, e poi se la lavoratrice è straniera il datore di lavoro dovrà effettuare soltanto qualche adempimento in più. Insomma, diciamo che stiamo su una buona strada, ma questo proprio perché fa parte degli obiettivi del nostro governo. L'onorevole Paola Pelino quindi approva quello che sta facendo l'INPS, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, e ricordiamo anche Francesca Romana Cagnoli ci ha dato un numero di telefono al quale si può telefonare, lo vogliamo ripetere? Sì, dottor... è il numero del contact center dell'INPS, è il numero 803 164. Ci sono degli operatori formati, appunto, che sono in grado di rispondere alle richieste che possono essere presentate dagli interessati, che possono essere i datori di lavoro, appunto, o anche i lavoratori che vogliano avere delle informazioni al riguardo. E appunto il contact center ha una serie di strumenti operativi con i quali acquisire le informazioni e le richieste che vengono presentate dagli interessati e indirizzarle o alle sedi competenti oppure acquisire direttamente nelle procedure di sistema tutti i dati che appunto vogliono essere inseriti. Senatrice Emanuela Baio, PD, membro della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. Che cosa c'è ancora da fare nell'ambito di colf e badanti nel far sì che queste persone poi si integrino veramente nel mondo del lavoro italiano e abbiano un giorno una pensione, se mai ce l'avranno, perché non sappiamo nemmeno noi se ce l'avremo, però ha capito, certo. per far sì che queste persone si integrino proprio nella nostra società. Ma guardi, innanzitutto buongiorno, mi sembra che le informazioni che sono state date anche attraverso questa commissione siano ottime e le proposte che ha fatto l'INPS e che sta già realizzando sono in linea con una politica seria di trasparenza. Servono sicuramente per facilitare il rapporto di lavoro tra la famiglia che assume una colf o una badante e la lavoratrice. Servono queste scelte, quella di poter telefonare e assumere una persona telefonicamente invece che ricevere il bollettino per poi pagare i contributi, invogliano anche alcune famiglie che magari finora non l'hanno fatto ad assumere la persona che lavora in casa loro. Però onestamente mi sembra sbagliato dire che questo serve per superare il lavoro nero. Facilita, ma non è lo strumento e non compete all'INPS mettere in atto politiche per superare il lavoro nero. Dovremmo essere noi, Parlamento e soprattutto il governo, a cercare di combatterlo. Io credo che serve dare un dato, cioè un lavoratore su una lavoratrice su tre, una colf su tre è assunta, le altre due invece lavorano in nero in Italia. Questo è un dato drammatico, ma è reale, è così, è sotto gli occhi di tutti. Credo quindi che servirebbe, per esempio, siccome la maggior parte delle persone che lavorano nelle nostre case sono soprattutto cittadine immigrate, credo che bisognerebbe superare il dato delle quote di ingresso per poter favorire. Noi sappiamo benissimo che le persone che hanno fatto richiesta di regolarizzazione sono già qui, stanno già lavorando, stanno già curando le nostre mamme, i nostri papà, i nostri figli. Allora, se vogliamo essere, come posso dire, oneste con noi stesse prima che oneste verso lo Stato, dobbiamo ammettere questo dato. Forse nel passato la politica delle quote è servita per cercare di accogliere e integrare i cittadini extracomunitari. Credo che oggi, dopo un numero più che abbondante di anni, ci dimostra che per alcuni settori la politica delle quote non serve, non è sufficiente, soprattutto per combattere il lavoro nero. Quindi voi proponete la liberalizzazione delle quote nel caso delle colf e badanti? Per quanto riguarda le colf e le badanti, secondo me questo è lo strumento che ci permetterebbe, accanto alla politica che sta facendo l'INPS, che è ottima e che va incontro a questa semplificazione e a questo invogliare la famiglia ad assumere la propria colf, credo che noi dovremmo fare una scelta di questo tipo. Poi dopo servirebbero anche dei controlli migliori, fatti meglio. Questo è un lavoro ulteriore che dovrà essere fatto, ma prima di tutto noi dobbiamo, se 700.000 persone hanno fatto richiesta di regolarizzazione e noi ne regolarizziamo solo 168.000, le altre persone, noi sappiamo benissimo che lavoreranno in nero, che lavoreranno in nero. Allora, abbiamo capito, insomma, l'onorevole Emanuela Baio, membro della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, Partito Democratico, propone: liberalizziamo le quote per colf e badanti. La quota rosa. Sarà l'INPS a calcolare i contributi per colf, babysitter e badanti. Rita De Blasis, responsabile API Colf, associazione professionale italiana collaboratori familiari e assistenti domiciliari. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo sentito la senatrice Baio del PD che diceva che i due terzi però delle colf e delle badanti in Italia comunque lavorano in nero. Cosa vuol dire lavorare in nero e quali sono i problemi per la salute anche della persona, del lavoratore? Quali sono i problemi? Ce lo vuole spiegare lei? I problemi sono quelli che comunque sono persone che non hanno dei diritti di cittadinanza, perché quando una persona non può essere regolarizzata, chiaramente tutto ciò che lo Stato offre a qualsiasi cittadino a loro viene negato, tipo, ne so, pensiamo alle cose più urgenti che possono essere la sanità, no? Quando si ha bisogno del medico, e poi ecco tutto il discorso comunque dei contributi non versati che comunque fanno a danno della lavoratrice, perché noi pensiamo ai contributi solo al fatto della pensione, ma dei contributi c'è il discorso anche della maternità, dell'infortunio, della disoccupazione, quindi chiaramente la lavoratrice immigrata non ha, è una persona un po' fragile dal punto di vista lavorativo. Chi sono le colf oggi? Da dove vengono? Ci sono ancora colf italiane? Abbiamo visto sì, però poche. Però c'è un ritorno delle colf italiane. C'è un ritorno perché soprattutto al nord, con la chiusura di tante attività lavorative per la crisi che c'è, tante donne italiane tornano a fare le colf. Quindi certamente anche loro lavoreranno in nero, perché questo è un dato di fatto. Però ecco, c'è il ritorno. La maggioranza delle colf oggi che sono presenti in Italia probabilmente sono dai paesi dell'est, e mentre nel passato c'era più, che ne so, filippine oppure sudamericane, oggi dobbiamo registrare che con la richiesta di assistenti familiari per gli anziani molte vengono dall'est europeo e fanno questo tipo di servizio. Allora, abbiamo sentito Francesca Romana Cagnoli, dirigente INPS, un dato che ci ha fornito la senatrice Emanuela Baio, ma insomma che mi sembra poi difficile da verificare, ma molto veritiero. Ancora i due terzi di colf e badanti lavorano in nero, vi risulta a voi? Sicuramente sì. L'INPS può avere soltanto l'informazione relativa ai rapporti di lavoro denunciati, certo, ovviamente, quindi però io penso che l'informazione... Consentiamo un attimo la senatrice Baio. Sì, sì. Diceva lei, ha questi dati come, senatrice Baio? Guardi, sulla base anche delle inchieste che sono state fatte, la ricerca recente fatta dal Censis, quindi non è solo una affermazione mia sulla base delle conoscenze, cioè io sono una persona che ha un rapporto molto stretto con il territorio, la provincia di Monza, Brianza, Milano, la Lombardia in genere, ma soprattutto il milanese e la parte, insomma, della Brianza. Ecco, le dico, sulla base delle mie conoscenze a me risulta questo, e guardi, sono tutte famiglie oneste, cioè non sono persone che vanno il fisco perché non fanno la dichiarazione dei redditi loro, sono persone onestissime la cui badante è in casa ed è amata dalla famiglia, però ha ragione la rappresentante, la Rita De Blasi dell'Apicolf, quando queste persone, può capitare anche a loro un infortunio, non è solo per l'aspetto pensionistico, perché molte di queste donne che lavorano qui probabilmente da anziane non resteranno in Italia. Quindi io credo che noi, questo è un problema legislativo, dobbiamo anche ripensare il rapporto contributivo tra la lavoratrice badante, COLF e l'istituto previdenziale. È un discorso forse che non si può affrontare adesso, sì, infatti, in pochi minuti in una trasmissione. No. Però secondo me il tema del far uscire, far emergere dal lavoro nero, io da quello che conosco ed è confermato dai dati della ricerca del Censis, molte famiglie preferirebbero avere una colf assunta, probabilmente ce n'è qualcuna invece che continuerebbe a mantenerla in nero. Io no, questo non, io, non sono in grado, ecco, di io la interrompo, sentiamo che cosa ci dice Francesca Romana Cagnoli, dirigente INPS. Insomma, abbiamo sentito i dati della senatrice Baio, sono un po' preoccupanti. Oltretutto queste donne che lavorano in casa, che cosa rischiano se magari si fanno male? Ecco, ce lo vuol dire lei? Allora, le misure introdotte di cui abbiamo parlato prima sono finalizzate a rendere appunto il più agevole possibile l'assunzione e quindi la regolarizzazione della posizione della lavoratrice all'interno della famiglia. La regolarizzazione della posizione comporta anche la copertura dei rischi connessi agli incidenti o agli che possono intervenire nel corso dell'attività, quindi l'INPS tra l'altro nel momento in cui riceve la denuncia di assunzione è tenuto a comunicare telematicamente la notizia all'INAIL perché l'INAIL possa a sua volta registrare il lavoratore come lavoratore assicurato. Certo, se si tratta di lavoratore non in regola con il permesso di soggiorno perché arrivati in Italia in modo non regolare, i problemi sarebbero comunque esistenti perché in ogni caso l'iscrizione presuppone l'esistenza del permesso di soggiorno che deve essere uno degli elementi comunicati all'atto della denuncia. Quindi è chiaro che forse l'aspetto della regolarizzazione di queste persone, che sicuramente è un aspetto delicato, passa per un intervento legislativo che comporta necessariamente una modifica dei parametri legati ai flussi d'ingresso oppure un'apertura, insomma. Certo, un'apertura maggiore. Io la interrompo perché volevo appunto sapere, l'onorevole Paola Pelino, ricordiamo PDL, segretario della nona commissione lavoro pubblico e privato, lei come vede la possibile abolizione delle quote per colf e badanti? Guardi, c'è da fare una premessa. Questo governo naturalmente sta guardando con molta attenzione a questo argomento. Perché? Perché noi dobbiamo sempre pensare che abbiamo bisogno che l'immigrato sia una risorsa, d'accordo, e non un problema. E allora bisogna mettere a punto alcune condizioni tali che possano liberalizzare eventualmente l'ingresso di questi immigrati. Oggi non siamo ancora in grado perché dobbiamo ancora ottemperare ad alcune situazioni che nasconderebbero probabilmente altre situazioni, come ad esempio quello dei ricongiungimenti familiari mascherati, eccetera. Quindi secondo me è giusto andarci molto cauti da questo punto di vista. Sono assolutamente d'accordo che bisogna mettere questi bravi lavoratori, tra virgolette, che noi accogliamo in condizioni di tutela, così come un datore di lavoro, e qui naturalmente ne vale della mia esperienza di imprenditore, deve assolutamente mettere in regola queste persone. Ecco, lei ha parlato della sua esperienza di imprenditore, noi approfittiamo, l'onorevole Paola Pelino viene eletta a Sulmona, sappiamo che in anche Abruzzo, diciamo, perché in Abruzzo oggi, beh, insomma, però sono di Sulmona, certo. Lei certo viene eletta a Sulmona, è un'imprenditrice, che cosa fabbrica? Confetti, giusto? Da sette generazioni, sette. Quindi dal 1783. Insomma, la sua fabbrica in questo momento, vogliamo, proprio perché è una fabbrica, sì. Poi per noi la quota rosa è ancora maggiormente un onore, il fatto che sia una donna a capo di una fabbrica, una donna in politica. Dove lavorano solo donne. Dove lavorano solo donne, quindi ancora di più, quindi una fabbrica tutta rosa, a parte i confetti rosa che vengono anche regalati. Che vengono anche anche regalati, e continuate a lavorare malgrado, insomma, ci sia stato il terremoto, la fabbrica era costruita bene, quindi ha tenuto, quindi questo vuol dire che poi bisogna fare le costruzioni giuste, no? Antisismiche. Questo diciamo è l'unico modo per prevenire. Noi sappiamo perfettamente che non si possono prevedere i terremoti, ma si possono identificare quelle zone anche ad alto rischio. Il Sulmona è una zona ad alto rischio, e quindi l'unico modo di prevenzione è costruire case o luoghi di lavoro dove ci si stia abbastanza tranquilli. Lei ha continuato a produrre sempre anche dopo la prima scossa, dopo la seconda scossa? Guardi, Sulmona, ecco, mi permetta di aprire una parentesi e quindi di rivolgere in questo momento il mio pensiero è sempre all'Aquila, tra l'altro in questi giorni è una continua spola dall'Aquila Sulmona. La mia città fortunatamente non ha avuto vittime, ma è stata, ahimè, anch'essa segnata da questo terremoto. Quindi alcune strutture, tant'è che abbiamo fatto evacuare persone, abbiamo tendopoli e tutto il resto, però fortunatamente non ci sono state vittime. Abbiamo continuato a lavorare perché se da una parte c'è un'emotività che ci porterebbe a star fermi perché naturalmente il dolore è tanto grande, da un'altra bisogna ridare l'input, la vita è un continuo alternarsi di momenti brutti e momenti belli, quindi stiamo attraversando un momento brutto, doloroso, difficile per la nostra regione, però dobbiamo assolutamente ripartire. Si è continuata questa produzione, naturalmente la nostra rete commerciale nazionale ed internazionale, quindi le richieste piovono un po' da tutte le parti, prima però, dopo la domenica e lunedì mattina, prima di metterci al lavoro, abbiamo fatto venire appunto dei tecnici per guardare che non ci fossero e che ci fosse tutta la sicurezza possibile per i lavoratori. E loro mi hanno detto potete ripartire a fabbricare confetti. Perché, certo. Quindi no, ma questa cosa della sua fabbrica mi piace molto, perché in un aspetto molto drammatico, come quello del terremoto, si fabbrica una cosa così bella e così buona come sono i confetti. Io la ringrazio, onorevole Paola Pelini. La chiuderei anche con Rita De Blasis, che è responsabile, lo diciamo, di Apicolf, che lei pure viene dall'Aquila, quindi pure lei si trova in questo momento in una situazione molto difficile. Beh, diciamo che ecco, grazie a Dio noi siamo della parte della Marsica, non abbiamo subito danni, però ecco, c'è sempre la paura. L'augurio che da questa tragedia rinasca un Abruzzo sempre migliore. Ecco, la preoccupazione penso che è stata già espressa è quello che non si infiltrino le mafie nella ricostruzione, no? Quindi ecco, l'augurio è sempre quello. Mi auguro che nella ricostruzione avvenga nel migliore dei modi e che ci sia questo impegno assoluto, perché è anche un discorso etico e morale che dobbiamo così riaffermare. Allora, noi diciamo che con queste donne abruzzesi, appunto l'onorevole Paola Pelino, ospite della nostra trasmissione, e Rita De Blasis, responsabile di Apicolf, l'Abruzzo ripartirà sicuramente bene. Abbiamo voluto semplicemente rendere omaggio a questa regione colpita dal terremoto e guardare al di là e cercare un messaggio di speranza. La quota rosa. Allah Akbar, l'assordante richiamo del muezzin penetra come luce al mattino nelle orecchie e nei sogni degli uomini ancora sprofondati nel sonno. Lodo colui cui nulla manca, il sempiterno. Il camion scarica i soldati nelle strade cittadine come conigli in una conigliera e come coniglio loro si sparpagliano, non possiedono nulla. Le donne velate tengono il capo chino, quelle a capo scoperto fanno lo stesso, il desiderato, il vivente, l'unico, l'eccelso. Ecco, torniamo a parlare, perché è un argomento ricorrente nella Quota Rosa, dei diritti delle donne nei paesi islamici. Torniamo a parlare di Iran con L'età degli orfani di Laleh Khadivi, un romanzo appena uscito per Rizzoli, ma soprattutto ci preoccupa la situazione dei giornalisti in Iran. Sappiamo che è incriminata per spionaggio la giornalista americana Saberi, freelance, arrestata il 31 31 gennaio rischia la condanna a morte. Ma anche nel nostro paese, a parte Roxana Saberi, un altro giornalista, un inviato del Giornale, è stato allontanato da Teheran, si chiama Stenio Solinas, è con noi oggi e noi vogliamo sapere come si vive in quel paese, che cosa è successo, cosa ti è successo, Stenio? Sì, buongiorno, ma ovviamente nulla di paragonabile al caso gravissimo che avete raccontato in apertura. La mia è stata una situazione molto più semplice. Sono entrato con un visto turistico in Iran, mentre ero in Iran dopo una decina di giorni il mio giornale ha pubblicato la prima puntata di un reportage legato appunto al trentennale della rivoluzione, e questa puntata non è piaciuta al governo iraniano, ma soprattutto mi è stato imputato di essere entrato con un visto turistico e non giornalistico, e quindi sono stato espulso dal paese dopo una lunga conversazione negli uffici di polizia di Teheran. Io non ero a Teheran in quel momento, ero a Shiraz, venivo quindi da un giro all'interno del paese, ero stato prima a Isfahan e poi a Shiraz, per cui loro hanno comunque aspettato che io rientrassi a Teheran, e quando sono rientrato a Teheran mi hanno sequestrato il passaporto e poi mi hanno convocato negli uffici della polizia. E questi interrogatori come sono stati? Ma insomma è stato un interrogatorio assolutamente inconcludente, nel senso che fin dall'inizio la decisione era già stata presa, quindi sono un po' quegli interrogatori in cui ciascuno recita una parte, loro fingono di non capire bene tu per quale motivo sei lì, tu racconti che non sei ostile al popolo iraniano eccetera eccetera, e poi alla fine comunque ti espello. Infatti noi anche nella Quota Rosa, se così vogliamo dire, non siamo assolutamente ostili al popolo iraniano, il problema non è il popolo. E questo invece, Roxana Saberi, 31 anni, è nata negli Stati Uniti da padre iraniano e madre giapponese e da 6 anni risiede in Iran. Lei è incriminata invece di essere una spia, per questo rischia la pena di morte. Ma guardi, io credo che la situazione interna iraniana sia un po' simile a tutte quante le situazioni interne di paesi totalitari o di regimi autoritari, che hanno un problema di crescita della società civile, della società economica, e difficoltà a orchestrare, a gestire il tutto, un po' come avviene nella Cina post-maoista o nella Cuba post-castrista, quindi si tratta di regimi che da un lato allentano un po' il freno della repressione per quello che riguarda la realtà privata, nel senso che poi nelle case le libertà sono molto maggiori di quanto non appaia nella pratica quotidiana, però chiedono in cambio che non ci sia né una critica al regime politico né di opposizione più o meno dirette, insomma. Quindi tutto poi rimane un po' ovviamente legato a un potere che può colpire quando gli pare, come gli pare, insomma. Infatti Roxana Saberi, 31 anni, è accusata di aver lavorato per diverse testate senza tesserino stampa. Questo è veramente una follia. Riguardo invece al tuo reportage, si chiamava Teheran, un picnic sulla tomba di Khomeini. Che cosa avevi detto che non era piaciuto? Anzi, cosa avevi scritto? Ma guarda, io avevo, quella era appunto la prima puntata di, mi pare, 4-5 servizi che io ho poi fatto, e che partendo appunto dal trentennale di rivoluzione, cercavo un po' di disegnare un identikit di questo paese, che poi è enormemente giovane, insomma il 70% degli iraniani è nato dopo la guerra contro l'Iraq, e quindi c'è un problema anche a tenere vivo un sentimento chiamiamolo nazionale di identità in una nazione che appunto di fatto quella tragedia della guerra non l'ha vissuta. Quella prima puntata raccontava come appunto il mausoleo che è stato costruito per volontà di Khomeini dopo la sua morte è un mausoleo dove la gente può andare tranquillamente non solo a pregare ma anche a fare dei picnic, insomma, che poi voglio dire non sono cose che ho notato solo io, ma in qualsiasi buona guida dell'Iran le si trovano, insomma, quindi anche quella era pretestuoso. Senti, ma qual è la situazione delle donne attualmente in Iran? Ma sai, lì voglio dire, come al solito, se noi lo guardiamo da un punto di vista occidentale, non va bene niente, insomma. Se noi lo guardiamo dal punto di vista di una realtà medio orientale, è un paese dove appunto le donne possono esercitare qualsiasi professione, pilotano gli aerei, portano i tassi, fanno gli avvocati, c'è la più alta percentuale di laureate nel paese rispetto ai laureati. Come al solito, insomma, un po' tutto quanto sempre in bilico, ecco, c'è una forza femminile che il governo non può disconoscere, c'è una identità e una visione della donna che comunque è una visione importante nella società iraniana. Contemporaneamente c'è la necessità di mantenere un potere, di mantenere un ordine che è quello dato appunto dalla rivoluzione e due 30 anni di potere in quel paese. Maschile e maschilista, diciamolo. Noi ringraziamo Stenio Solinas, ricordiamo l'inviato del giornale che è stato espulso dall'Iran perché è entrato con un visto turistico. Ricordiamo che ci sono purtroppo due donne, la giornalista americana Saberi, che rischia la condanna a morte perché ha lavorato per diverse testate senza tesserino stampa, e anche una ragazza pittrice al patibolo in Iran, condannata quando aveva 17 anni e oggi ne ha 23. Io ringrazio Paolo Corleoni in regia, Riccardo Silvi in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla quotarosa@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.